Medius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza, con Federico Pedrocchi. Benvenuti a tutte e tutte, ciao Chiara. Ciao Federico, buonasera. C'è un piccolo acceleratore a Pavia che... Mignon, come quello delle... però fa altre cose, non è come quello di Ginevra. E poi volevo raccontarti di delle aquile che si strappano, prendono dei brutti colpi, però non possono curarsi, poverino. Come smettere di vivere e iniziare a preoccuparsi, in qualche modo c'entra, e chi ce lo dice? Un filosofo americano. Partiamo subito. Andiamo a Pavia, dove c'è un apparecchio che è molto simile a quello di cui abbiamo parlato tantissime volte, no Chiara? L'LHC. Un pochino più piccolo, un cerchietto più piccolo. Decisamente più piccolo, ma è anche giusto che sia più piccolo. E per parlare di questo sincrotrone abbiamo Francesca Valvo. Buonasera Valvo. Buonasera. Allora. Parlavamo di dell'acceleratore famosissimo del CERN, ecco, non l'abbiamo detto, l'abbiamo dato per scontato, ok? Che è uno dei nostri amici più vicini, perché l'abbiamo seguito in tutte le sue peripezie fino al grande risultato finale. Questo vostro acceleratore, che si trova al Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica a Pavia, allora ha una similitudine fortissima con un acceleratore di particelle, no? È un acceleratore di particelle, è di per sé un piccolo CERN, infatti la professoressa Giannotti, quando è venuta qui a visitarlo, ha detto che gli faceva tenerezza perché gli ricordava. Sembrava di essere a casa, ma una casa un pochino più piccola. Un bambino piccolo, ecco, a noi ci sembra molto grande perché ha un diametro di 25 metri e è un acceleratore, un tunnel, un lungo tunnel di 80 metri dove vengono accelerate le particelle da un plasma di idrogeno e di anidride carbonica, vengono prodotti protoni e ioni carbonio, cioè adroni, che nel loro complesso si chiamano adroni. Queste particelle sono particelle cariche, sono particelle pesanti, quindi rispetto alle radiazioni che noi conosciamo, le radiazioni convenzionali, hanno delle differenze fisiche, differenze di tipo balistico, cioè quando attraversano un corpo rilasciano pochissima energia nell'attraversamento di questo corpo e la rilasciano tutta là nella profondità in cui vengono dirette, cioè a seconda dell'energia che il nostro sincrotrone imprime a queste particelle energia che noi possiamo dosare, riusciamo a indirizzarle a profondità differenti a seconda dove è situato il tumore, con molta meno diffusione intorno, no? Esatto. Quindi sono molto mirate, molto mirate, e rilasciano pochissima energia quando entrano, ma la rilasciano tutta là nella profondità dove noi l'abbiamo mirate. Proprio per questa caratteristica, esatto, vengono utilizzate per questo scopo, ecco, a differenza insomma di quelle che conosciamo del CERN, che sono particelle che ci danno altre informazioni. In questo caso invece hanno uno scopo molto nobile, ecco, che è appunto quello della cura. Certo, quello, ecco, della cura. E lì il problema di arrivare a un certo punto e non oltre al target è fondamentale, no? Perché certo abbiamo a che fare con organi vitali, con tessuti, insomma. Ecco, certo. Allora, questa terapia qua ha una sua particolare utilità se confrontata con l'altra terapia oncologica, che è la radioterapia. Lei riesce a spiegarci appunto qual è la differenza? Perché poi dopo arriviamo a un punto importante. Qual è la differenza di utilizzo delle due tecnologie? Diciamo che da quando in Italia c'è il CNAO, il Centro di Adroterapia, l'Italia, l'oncologia italiana ha un'altra arma a disposizione a fianco delle armi convenzionali che è la radioterapia moderna, che ha fatto tanti progressi e che fa tante cose buone anche quella. La differenza fra noi e le più moderne macchine di radioterapia sta nel fatto che i tessuti del nostro organismo hanno una tolleranza, una dose di tolleranza alle radiazioni, superata la quale noi induciamo un danno nei tessuti sani. Quando abbiamo tumori molto vicini a tessuti che hanno tolleranza bassa ai trattamenti, alle radiazioni, come per esempio il midollo spinale, oppure l'encefalo, oppure l'intestino tenue, che sono tessuti che resistono poco alle radiazioni. Quindi per curare il tumore noi dobbiamo dare dosi più elevate delle dosi di tolleranza dei tessuti sani. E quindi diventa invasivo, diventa pericoloso. Trattarli. Nel nostro, con la nostra metodica, la caduta di dose dovuta proprio alle caratteristiche fisiche delle nostre particelle è una caduta di dose repentina, per cui noi possiamo dare un dosaggio curativo al tumore con un dosaggio molto basso ai tessuti intorno, quindi che sono più sensibili alle radiazioni, senza indurre danni collaterali o danni permanenti a tessuti delicati, diciamo. Quindi diciamo che le persone che si rivolgono a voi, i pazienti, sono pazienti che hanno appunto determinati tumori con determinate situazioni. Ecco, si può fare anche già una differenza, cioè, ce la può dire o non esiste, tra le tipologie di tumori che voi riuscite a creare, che magari con la radioterapia è più difficile? Diciamo che ci sono delle indicazioni già consolidate, delle indicazioni per tumori, per esempio i cordomi e i condrosarcomi della base cranica e della regione sacrale o della colonna hanno un'indicazione precisa questa all'adroterapia, perché necessitano di dosaggi alti per essere curati e sono situati in posizioni adiacenti a organi delicati, organi a rischio. Ci sono altri tumori come i sarcomi, per esempio, che anche se sono situati in altre zone non in zone a rischio, ma rispondono poco alle radiazioni convenzionali, hanno un'altra indicazione all'adroterapia, perché l'adroterapia ha una efficacia biologica superiore a quella dei fotoni, quindi è in grado di superare le resistenze cellulari in quei tumori che sono resistenti ai fotoni, cioè alle radiazioni normali. Senta Francesca Valvo, so che c'è un'altra particolare direzione, quanto mai adatta a questo tipo di tecnologia, che è curare le persone molto giovani, o purtroppo ci sono anche questi casi, proprio anche i bambini. Sì, questa è un'altra delle indicazioni dell'adroterapia, in particolare della protonterapia. I protoni, proprio per la caratteristica che le dicevo prima, cioè il rilascio della dose, il poco rilascio della dose nel canale di ingresso all'interno del corpo e la rilascio della dose là dove è necessario, danno una riduzione di quella che definiamo dose integrale al corpo. Questa dose integrale è responsabile nel tempo, negli anni, nei decenni successivi al trattamento, dell'induzione anche di secondi tumori, per cui ci troviamo a avere curato il bambino oppure il giovane adulto di una malattia curabile, ma poi nel tempo questo bambino, questo adulto può avere un secondo tumore. Ecco, con l'adroterapia, con la trattamento con protoni, questo rischio è ridotto di un fattore 15 da quello che dalle osservazioni effettuate nel mondo. Nel mondo sono stati trattati 100.000 pazienti, non è una terapia nuova questa, è nuova per l'Italia, ma non ecco, è nuova. Sì, infatti è meno conosciuta, nel senso che rispetto alla radioterapia in Italia è nettamente più sconosciuta. E addirittura è ovvio, ci sono pochi centri in Europa, noi ne abbiamo uno in Italia, quindi è un centro d'eccellenza, dobbiamo esserne orgogliosi, però quello che voi ci fate sapere è che potreste lavorare molto di più. Nel senso che non si sa granché di questa terapia. No, non siete noti come dovrebbero. Perché siamo giovani ancora, diciamo, dal punto di vista della vita del centro. Il centro ha iniziato la sperimentazione nel 2012 e adesso dal 2014 l'adroterapia è a disposizione anche da un punto di vista con il Servizio Sanitario Nazionale. Quindi noi abbiamo, attraverso l'Associazione Italiana di Radioterapia Oncologica, abbiamo cercato di comunicare a tutti i nostri colleghi italiani che esiste questo centro, però è chiaro che anche per essere attivi al massimo delle nostre capacità, ci vorrà tempo, ci vuole che la gente sappia che gli oncologi medici, che i chirurghi, che i neurochirurghi conoscano l'esistenza del nostro centro e non mandino i pazienti fuori dall'Italia. Ecco, quanti sono i centri come il vostro in Europa? Solo uno, Heidelberg. Ah, ecco, e le risulta che comunque molti pazienti, anche italiani, vadano là? Molti finiscono lì, molti finiscono nei centri di protonterapia che si trovano in Francia, perché in Heidelberg è l'unico, oltre a noi, che ha sia protoni che ioni carbonio. Nel mondo ce ne sono 6 in tutto, Ecco, mentre... a maggior ragione, appunto, il nostro è davvero un'eccellenza. Mi permetto di aggiungere anche una cosa, che è un'altra eccellenza in Italia. Il nostro centro è costato meno di quanto è stato stanziato. Questa è una cosa assolutamente nuova per l'Italia, no? Sì. Non è usuale. Che costi meno un cantiere, qualunque esso sia. Bisogna che assolutamente ci sia più conoscenza di questa. Voi potreste lavorare molto di più. Ecco, insomma. Infatti, a questo proposito, magari Valvo, siccome il tema appunto è anche delicato, magari qualche ascoltatore può essere interessato, diamo qualche informazione precisa su come possono trovarvi. Allora, abbiamo detto Centro Nazionale di Adroterapia Oncologica di Pavia, l'acronimo è CNAO, ecco, e diciamo che sul vostro sito facilmente possono accedere, possono trovare le informazioni per mettersi in contatto con voi? Assolutamente sì, noi abbiamo anche un servizio medico telefonico, per cui sul sito ci sono tutte le indicazioni, per cui i pazienti possono telefonare e parlare direttamente con il personale medico e abbiamo un servizio di mail che è serviziomedico@cnao.it, che a cui il paziente può inviare la documentazione e riceve una risposta nel giro di 24 ore. Sarà anche insomma nostra cura diffonderlo nei nostri canali, metterlo anche sul sito della radio, alla nostra trasmissione. Va bene. Dopodiché, Valvo, guardi che sul bosone di Higgs c'è una certezza al 90%. Quindi caspita. Se casomai ne trovate uno. Casomai ne troviamo uno, lo usiamo per curare i pazienti. Certo. Va bene, Valvo, davvero buon lavoro. Grazie molte, buona serata. Mebius, in viaggio nel mondo senza fine della scienza. Scusa Chiara, tu sei etologa di formazione, ma un'aquila prenderà pure degli strappi. Vabbè, è molto probabile durante questi voli. Anche molto quel probabile. Momento in cui si avvicina al nido, che probabilmente lì c'è una certa rigidità nelle zampe, no? Beh, certo, poi vabbè, al massimo prendo un antidolorifico. Esatto, no. Scusa Marco, ma le aquile prenderanno degli strappi, dai. Probabile, sì. Con tutto quel disastro che fanno con le ali, girano a tutte le parti, si avvoltano su se stesse. Però non possono curarsi a queste cose. Dicevamo che non possono curarsi. Allora, diciamo che non possono curarsi come fanno tutti gli altri. Sì, avrebbero dei grossi problemi. Anche andando in farmacia avrebbero qualche problema a procurarsi ecco, le... Marco Ferrari, fisiatra di aquile e avvoltoi. Ecco. No, non è così. Lo sapevo. Marco Ferrari è un collega giornalista di Focus che ogni tanto utilizzeremo qua in trasmissione per parlare di robe un po' strane. Questo è veramente. Beh, ormai strane. È noto agli ascoltatori per la notissima trasmissione che aveva come tema la popò. Che trovate sul nostro blog, ha avuto già un notevole successo. Marco, dobbiamo avvisarti, diverse migliaia di contatti, però e lì la potete riascoltare. Però veniamo al problema, perché il problema è tutt'altro che leggiadro. No, esiste in realtà un serio rapporto tra l'antidolorifico e gli avvoltoi e le aquile. Sì, il serio rapporto esiste perché un antidolorifico è un antinfiammatorio, un farmaco antinfiammatorio di uso anche veterinario oltre che umano, è un vero veleno terrificante per avvoltoi e aquile, prima per gli avvoltoi, poi si è scoperto che anche nelle aquile così. Questa medicina viene usata anche per ragioni veterinarie, quindi nelle mucche, cose di questo genere. È una medicina che noi usiamo abitualmente, adesso non possiamo fare nomi, ma con un principio attivo molto noto. I marchi sono tanti, ma il principio attivo è il diclofenac. Esattamente. È questo qua. Diclofenac veterinario utilizzato per far sì che le mucche non soffrano troppo quando hanno dei problemi di infiammazione, per gli avvoltoi è un veleno terrificante, perché basta che l'1% della carne di queste mucche sia, diciamo, contenga questo principio attivo, e gli avvoltoi muoiono. Ecco, scusa, ma com'è che la relazione ci deve spiegare? Carapace? La relazione mucca-rapace è essenziale in India per adesso, poi vediamo se c'è anche qualcosa che ha a che fare con l'Europa, ma in India le mucche, come tutti sanno, specialmente per l'Indù, non possono essere mangiate, quindi quando si usa per il latte, quando muoiono vengono, diciamo, lasciate o per strada o più facilmente in zone particolari, e vengono divorate dagli avvoltoi, che erano milioni in India fino a qualche tempo fa. Poi quando hanno cominciato a curare le mucche, ovviamente in vita, con l'antinfiammatorio, gli avvoltoi hanno cominciato a morire come delle mosche. Cioè sono morti 40 milioni di avvoltoi in 15 anni. Quindi c'è stato proprio uno studio che ha visto, insomma, ha rilevato questa grossa moria. E in realtà che cosa succedeva agli avvoltoi? Com'è che agisce? Agisce essenzialmente sui reni, sui reni degli animali, smettono di funzionare, e ovviamente senza i reni funzionanti un animale muore, anche l'uomo morirebbe senza i reni funzionanti. Cioè gli spappola i reni praticamente. Fondamentalmente sì. Il problema non è tanto la morte, cioè, oddio, per gli ornitologi e gli amanti dei birdwatcher, la morte degli avvoltoi, ma sono le conseguenze che sono assolutamente terrificanti, perché se muoiono gli avvoltoi ci sono, prima di tutto, le mucche morte rimangono, diciamo, in loco, in decomposizione, possono contaminare ad esempio i pozzi, poi aumentano i cani, i ratti e altri animali che si nutrono di cadaveri, i cani selvatici ovviamente, aumentando quello aumenta la rabbia. Aumentano i morti per rabbia, aumentano, sentite questa, i leopardi che si nutrono di cani, che quindi avvicinandosi ai villaggi per nutrirsi di cani, vuol dire se c'è un bambino vuoi non farti uno spuntino con un piccolo bambino, carità, le conseguenze certo. Sono terrificanti. Poi scusami Marco, questo Prego. Effetto che hanno sui rapaci, ce l'hanno anche su altri volatili ad esempio, sì. Perché a quel punto se ce l'hanno su molti volatili, il problema su altre specie intendo dire, il problema diventa davvero consistente. Quello che si sa è che a parte gli avvoltoi, che hanno appunto le conseguenze che diciamo, l'antinfiammatorio ha degli effetti anche sul metabolismo delle aquile. Poi dipende dalle specie, alcune specie sono più sensibili, altre meno, ma voglio dire, negli avvoltoi, in alcune specie di avvoltoi c'è stato un crollo del 97% della popolazione, quindi vuol dire che fino a qualche tempo prima se ne vedevano sempre in cielo, da quel momento in poi basta, cioè dal punto di vista ecologico e conservazionistico è un disastro assoluto, insomma. Poi cavoli, e infatti Federico ti chiedeva, in Italia, già in Italia come avvoltoi non siamo proprio messi benissimo, i rapaci magari sì, ma gli avvoltoi, soprattutto il gipeto, così piano si stanno ripopolando. Sì, il gipeto sta tornando nelle Alpi, ovviamente, nel Gran Paradiso dello Stelvio ci sono, il problema sono i grifoni, che sono gli altri avvoltoi italiani. Anche loro, se dovessero nutrirsi di mucche, diciamo di carne contaminata, morirebbero, perché sono praticamente dello stesso genere dei grifoni indiani. Però Marco, qui dobbiamo dire, allora dimmi se la sequenza è giusta, mucche di allevamento che per ogni tanto vengono anche portate al pascolo, sono mucche che in allevamento vengono curate con antinfiammatori, poi però la mucca muore. Ecco, mi domando questo, cioè viene lasciata lì, questo mi sembra un po' strano. Ecco, forse in Italia no. In Italia è un pochettino più raro in effetti, ma oltre che alle mucche viene anche dato ad altri animali domestici, che potrebbero essere capre o cose del genere, che è più facile che possano venire diciamo lasciate al pascolo. Poi può sempre succedere che una mucca all'alpeggio molto in alto muoia perché cade in un burrone e nessuno va a riprenderla, sono questi casi quindi soprattutto diciamo nelle zone montane in cui i due habitat proprio si sovrappongono. Esattamente. Si può fare qualcosa, Marco, per evitare? Sì, si può fare quello che hanno fatto gli indiani e tutti gli altri paesi del sud-est asiatico, cioè invece di usare il principio attivo che dicevamo prima, cioè il diclofenac, basta non utilizzarlo, perché ad esempio loro hanno bandito l'utilizzo nel 2006 e c'è a questo punto un lievissimo aumento della popolazione degli avvoltoi, non si è ancora ai tempi, diciamo così, degli anni 80 e 90, però almeno questa minaccia non c'è più. Quindi diciamo che è questo principio attivo specifico, gli altri antidolorifici o antinfiammatori utilizzati, diciamo, in veterinaria non hanno questi effetti. No, non dovrebbero avere questi effetti, poi certo. È ovvio che se ci sono dei principi attivi simili magari ce l'hanno, però ci sono, diciamo che ci sono disponibili delle alternative. Certo Marco, che questo è un esempio perfetto per vedere come l'ecologia e gli ecosistemi... Le catene alimentari. Sì, ma poi voglio dire, è il dettaglio che crea improvvisamente, no, una tragedia. Insomma. Sì, cioè, esattamente. Cioè una cosa minima, da una cosa minima, uno, figuriamoci se uno sta lì a pensare alla salute degli avvoltoi, ci certo. sono miliardi e miliardi di danni. Certo. Poi ci sono tutte le conseguenze, appunto i pozzi contaminati, cose di questo genere. E in fondo la cosa... che conta dal punto di vista ecologico generale è proprio il crollo della popolazione di una o più specie. Certo. Beh, anche per questo insomma che abbiamo deciso di raccontarlo, e quindi per questo valore ecologico che ha. Siamo Marco, arrivati grazie. In conclusione. Grazie a voi. Ci risentiamo voi. Presto, ecco, presto. In queste storie. Sì, di cose strane nel mondo ce ne sono moltissime che vanno molto al di là di quello che vediamo in televisione, e voi siete i migliori a raccontarle. Grazie Marco, grazie. Buona serata. Buona ciao. Serata, grazie ciao. Voi, grazie a voi, ciao. Ciao. Festival della Scienza e della Filosofia a Roma, l'Auditorium si è appena concluso, ve ne parleremo un po' anche nelle prossime settimane. Noi qui questa sera incominciamo con un filosofo americano, Simon Critchley, che ha scritto Come smettere di vivere e iniziare a preoccuparsi, edito dal Mondadori Università nella collana Scienza e Filosofia. È un'intervista con lui che è venuta decisamente bene ed è molto interessante. L'abbiamo intervistato e naturalmente la prima cosa che abbiamo dovuto chiedergli è da dove arriva questo titolo, Come smettere di vivere e iniziare a preoccuparsi. The title of the book is inversion of a book by Dale Carnegie. Il titolo è un rovesciamento di quello di un famoso testo uscito nel 1949. L'autore era Dale Carnegie, il cui titolo appunto era Come smettere di preoccuparsi e iniziare a vivere. Il libro di Carnegie è stato il primo di una lunga serie di libri dedicati al self-help, l'autoaiuto. Ecco, il mio libro è contro il self-help. È iniziato in Svezia 6 anni fa. Quando io e altri abbiamo progettato una sitcom e cercavamo un titolo accattivante. Un'altra frase provocatoria e ironica che lei usa per descrivere la sua attività è: io spero ardentemente che non ci sia, come dire, nessun seguito a quello che io dico. Yes, I hope that people don't follow what I say and they think. Sì, è così. Io spero che nessuno segua quello che dico e usi la propria testa. Io vorrei che il mio pubblico legga quello che scrivo, vi trovi un motivo anche per sorridere. Il mio messaggio filosofico, in sostanza, è il seguente. State attenti agli esperti e ai guru che vi dicono cosa pensare. Io sono un sostenitore dell'autonomia. Lei tende a dire che dobbiamo smetterla di pensare al futuro, o per dirla meglio, probabilmente che pensare al futuro non è il modo migliore per realizzarlo, per raggiungerlo positivamente. I think that the future is the domain of ideology. Io penso che il futuro appartenga al dominio dell'ideologia. Quando pensiamo al futuro, guardiamo da qui a 10 anni, 20 anni, e lo facciamo solitamente con un pensiero che è attraversato da paure. Penso che il compito della filosofia e delle scienze umane, in genere, sia quello di fornire interpretazioni del passato, della storia. Il mio punto di vista è che dobbiamo guardare al presente come il risultato di una conoscenza storica. Questo perché, quando guardiamo ai fatti storicamente, troviamo tutti gli errori che continuiamo a ripetere come esseri umani. E uno degli errori che riscontriamo puntualmente è quello di una costante attitudine a pensare a breve termine. E da qui nasce poi la visione nevrotica del futuro. Mentre si dovrebbe ragionare sul passato per avere effetti positivi sulla nostra vita presente. Oggi e nel passato recente noi abbiamo un numero vasto di filosofi che pensano che la tecnologia è uno strumento pericoloso la cui missione è quella di trasformare gli esseri umani in macchine, per dirla così brevemente. Lei appartiene a questo gruppo o ha una visione diversa su questo tema? I think technology is a double-edged... Penso che la tecnologia sia un fenomeno a due facce, che contiene una certa ambiguità. Non sono assolutamente antitecnologico a priori. Tuttavia, uso la tecnologia in modo abbastanza estensivo e penso che in particolare le tecnologie della comunicazione diano degli strumenti di interazione fra le persone che sono davvero un'ottima cosa. Sono quindi profondamente in disaccordo con quei filosofi come Heidegger che dicono che la tecnologia è un pericolo e che gli scienziati sono persone che non pensano. Io penso che la tecnologia sia uno strumento che può servire per trasformare la vita delle persone. Diciamo che sostanzialmente ho un atteggiamento positivo nei confronti della tecnologia. E lei pensa quindi che è possibile lavorare, maneggiare questa doppia faccia della tecnologia? Sì, assolutamente. Per esempio, io lavoro per il New York Times e gran parte di quello che produco va sulla versione online del quotidiano. Questo consente di produrre contenuti che poi entrano in relazione con il pubblico. E questo serve per produrre contenuti successivi che tengono conto di questi contributi. Questo sistema di relazioni mi serve molto per adeguare la mia attività come docente, per esempio. E poi posso essere qui a Roma e restare in contatto con i miei studenti a New York, rispondendo alle domande che loro si possono fare. Se c'è un problema, invece, è tracciare un limite fra il lavoro e il non lavoro. Queste nuove tecnologie possono consentire alla gente di non smettere mai di lavorare, e questo può essere un grosso problema. L'umorismo, nella sua opinione, è una forma molto potente di filosofia che è fondamentale nelle relazioni che gli umani devono stabilire, avere con l'intero mondo, con la realtà. Penso che l'umorismo rompa la consuetudine che c'è nella relazione che abbiamo con la quotidianità. Esso ci fornisce una prospettiva inusuale attraverso la quale è possibile trasformare la visione che abbiamo della vita. Una buona battuta umoristica può rovesciare il modo in cui facciamo una certa attività. L'umorismo coinvolge il nostro linguaggio, le nostre percezioni, e in questo senso possiamo pensare a una barzelletta come a uno strumento filosofico. Una bella barzelletta richiama una lettura delle cose che è analoga a quella suggerita da un discorso filosofico, perché la filosofia, in fondo, pone domande che tengono a superare il senso comune. Sì, per me l'umorismo è un grande strumento filosofico. Lei non può evitare a questo punto di dirci cosa ne pensa delle vignette fortemente antislamiche, provocatorie, che sono state pubblicate da Charlie Hebdo. Penso che in una società sia essenziale fare battute, deridere il potere, le autorità, e quindi sono completamente a favore della pubblicazione anche di vignette nelle quali, per esempio, appare il profeta Maometto. Quindi sono stato solidale con le manifestazioni che ci sono state a Parigi. Vorrei però che ci fosse coerenza. Se i francesi vogliono difendere la libertà di parola, questa libertà deve essere data anche a chi critica la Francia. Mi riferisco all'autore di teatro di Donne che è stato addirittura arrestato. I governi, gli stati, non devono mai controllare le manifestazioni critiche dell'ironia, come del resto scrisse anche Pirandello molti anni fa. Però ripensando alle aquile, lì ci sono anche quelle cinture, quelle sì, cose la che pancera, mette la pancera, ecco, sì, non so se inficia un po' sull'atterraggio, ma tiene un po' caldo. Sì. Va bene, ricordo solo velocemente i contatti. Per chi volesse scriverci, moebius@radio24.it. E poi ricordatevi, potete rimanere aggiornati con noi attraverso radio24.it, la pagina dedicata alla trasmissione, oppure il blog, sempre sullo stesso sito. Basta. Buona settimana a tutti. E a tutte.